Siamo in collegamento con Bruna Gambarelli del teatro Dom La Cupola del Pilastro. Buongiorno. Buongiorno. Il 21 ottobre iniziava la vostra nuova stagione teatrale in cui vi chiedevate proprio che cosa succede se togliamo il teatro al teatro. La peggiore delle ipotesi è proprio accaduta. Qual è la vostra situazione attuale? Beh, come tutti i teatri d'Italia, dopo 4 giorni dall'apertura abbiamo dovuto ovviamente rinunciare a tutte le attività rivolte al pubblico, quindi la stagione si è bruscamente interrotta. Naturalmente questo ha determinato anche tutta una serie di riorganizzazioni tra noi, gli artisti, i videomaker, allestitori, insomma tutto il mondo che chiaramente gravita intorno a un teatro pubblico, con cui abbiamo avuto insomma diverse conversazioni a seguito di questa brusca interruzione. Per fortuna il Dom però fa anche altre attività che non sono direttamente legate all'apertura al pubblico, come tutta la parte di ricerca e di studio sulle arti performative, ma anche sugli archivi e la parte, diciamo così, più legata all'audiovisivo. È rimasta ancora attiva qualche iniziativa culturale della stagione del Teatro Dom, come ad esempio la mostra Cartoline dal luogo memorabile, o è tutto chiuso? Stiamo ragionando in questi giorni su cosa fare rispetto alla mostra, perché in realtà, da quello che abbiamo capito dall'ultimo DPCM, noi potremmo anche lasciare aperta la mostra, ma dobbiamo comprendere se questa cosa ha senso rispetto all'insieme delle attività che facciamo. Noi prevalentemente siamo un teatro, se è stata stabilita la chiusura dei teatri, forse è anche giusto che noi non offriamo più altre attività fino a quando non verrà determinata la riapertura. Certo, avete già considerato un piano B se dovesse continuare appunto questa chiusura delle attività culturali? Beh, non abbiamo bisogno di pensare a un piano B, perché noi abbiamo sempre fatto moltissime attività al di là appunto di quelle che vengono svolte con un confronto diretto con il pubblico, quindi possiamo continuare a fare le nostre attività complessivamente, insomma, come dicevo prima, di ricerca, di studio, di prove, di produzioni. Questo però non ci fa essere più sereni, diciamo, tutt'altro, perché questa falsa partenza ha voluto dire moltissimo. Tutto quello che facciamo è creare una forte relazione con il pubblico, e questa viene interrotta, quindi questo avrà delle grosse ripercussioni anche sul resto dell'attività, nonché credo abbia anche delle grosse ripercussioni sul senso del teatro nella nostra città. Certo, assolutamente. Molte attività culturali stanno facendo degli appelli alle istituzioni per degli aiuti concreti. Voi che tipologia di aiuti chiedete appunto agli enti istituzionali in questo momento? Ma io credo che in questo momento di gravissima difficoltà bisognerebbe innanzitutto essere convocati insieme, aprire un tavolo di discussione, perché penso che sia necessario rivedere completamente il sistema delle convenzioni e il sistema basato sulla sussidiarietà con il quale fino ad oggi i teatri sono entrati in relazione con le istituzioni. Nel momento in cui questa sussidiarietà appunto da una parte viene a mancare, perché non ci sono più i ricavi propri determinati dalle tournée, dai progetti all'estero, bisogna ripensare tutto. Vorrei ringraziare tutti gli artisti che hanno preso parte a questa stagione, anche se è bruscamente interrotta. Vorrei ringraziare anche tutti quelli che avevano, diciamo, dato assenso per la loro partecipazione al resto della stagione che non si farà. Mi auguro di poter rincontrare prestissimo il pubblico. Nell'attesa che questo avvenga, ci sono manifesti per tutta la città con scritto "Saluti dal Pilastro", e abbiamo esposto fuori dal nostro teatro una serie di manifesti con scritto una frase di Jouvet che dice appunto: niente di più falso, niente di più vano, niente di più necessario del teatro. E vorrei che questa cosa qui riuscisse in qualche modo anche a permeare gli spettatori. Grazie Bruna, io la ringrazio ancora per questo approfondimento. Grazie a voi, arrivederci.